L'altro pianeta di Laura Bettini. Buon pomeriggio, bentornati all'altro pianeta, il pianeta della sostenibilità e del rispetto per l'ambiente. In questa puntata parleremo in particolare di rispetto per le spiagge e il mare. Lo faremo con due iniziative realizzate sulle spiagge della Romagna, diverse ma complementari. Partiamo da Riccione. Il Bagno 85 Giulia è stato il primo stabilimento entrato a far parte del progetto della provincia di Riccione sul turismo sostenibile Agenda 21. Dal 2003 ha realizzato vari progetti per la raccolta differenziata, la produzione di energia e acqua calda da pannelli fotovoltaici, la riduzione dei consumi idrici e via via fino all'uso di attrezzature realizzate con materiali riciclati e più ecosostenibili e il coinvolgimento in progetti di educazione ambientale. Si è poi particolarmente attrezzato per rendere accessibile la struttura ai disabili e ai non vedenti. Nel 2012 Bagno Giulia ha scelto anche le nanotecnologie per proseguire sul cammino della sostenibilità. E diamo quindi il benvenuto a Stefano Silvestrini, uno dei soci fondatori di NanoSilv, per parlarci di quello che è stato realizzato a Bagno Giulia. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio a tutti quanti. Silvestrini, allora, che cosa è stato fatto a Bagno Giulia? Ma forse prima ancora dobbiamo dire cosa sono le nanotecnologie, perché non è un tema di cui il comune cittadino sa molto, no? Quindi cosa sono le nanotecnologie, che usi possiamo farne, poi vediamo cosa è stato fatto a Bagno Giulia. Le nanotecnologie non sono nient'altro che l'utilizzo di materiali esistenti in natura, però in misura nanometrica. Un nanometro è un miliardesimo di metro. Diciamo che prima dell'invenzione del microscopio elettronico gli atomi si potevano solo visualizzare con l'immaginazione. E quando è stato inventato questo strumento si è riusciti ovviamente a individuare e a vedere come i materiali si possono modificare. Tanto per avere un'idea, noi lavoriamo con dei prodotti che sono dai 18 ai 50 nanometri. Tanto per avere un'idea, un capello è 100.000 nanometri di diametro. Un capello 100.000 nanometri, vabbè, questo ci rende forse ancora più difficile immaginare questa dimensione, però insomma rende l'idea, no? Senz'altro. Noi praticamente in Bagno Giulia, grazie anche a uno spirito veramente avveniristico che ha il signor Giovanardi, siamo intervenuti con più prodotti. Il primo prodotto che possiamo parlare è un prodotto a base di biossido di titanio. Il biossido di titanio è un materiale che in misura nanometrica reagisce con i raggi del sole, con la luce e praticamente fa diventare autopulenti e igienizza le superfici. Perciò all'interno di Bagno Giulia abbiamo pensato di applicare questo prodotto su tutte quante le superfici calpestabili, soprattutto comuni, e questo è diventato una cosa molto interessante, perché vuol dire che tutte le persone che camminano sopra queste superfici hanno senza vederlo la sicurezza di trovare una superficie igienizzata, antibatteri e senza funghi. Ma cosa si fa? Si spalmano questi prodotti? Come? Allora, questi prodotti nascono in un sistema chimico. Sostanzialmente la tecnologia interessante è che si è riusciti, queste nanoparticelle, a creare la condizione perché si aggrappino alle superfici. Per veicolarle alle superfici viene utilizzata dell'acqua, perciò sono tutti dei prodotti a base acqua, completamente atossici e senza nessun tipo di controindicazione per le persone. Possiamo definirli ecologici. Questi prodotti, una volta che vengono spruzzati sopra le superfici, automaticamente l'acqua evapora e la parte, in questo caso il biossido di titanio, si aggrega alla superficie. L'aggregazione è un'aggregazione atomica, tanto per fare un esempio è come idrogeno e ossigeno che formano l'acqua. La nanoparticella si aggrega alla superficie e diventa parte integrante della superficie. Questo è un concetto molto importante, perché va a modificare un po' tutta una serie di tecnologie precedenti. Le tecnologie precedenti erano tecnologie che volevano proteggere la superficie mettendo qualcosa al di sopra, perciò come mettere un rivestimento. In questo caso invece la nanotecnologia fa sì che sia la superficie che cambia il suo stato e, modificando il suo stato, acquisisce delle proprietà diverse. Ma quindi modifica il suo stato per sempre? Non c'è bisogno di rifare nuove applicazioni? Allora, la durata di questi prodotti è assoggettata soprattutto alla superficie a cui viene ancorata. Ovviamente più la superficie ha diciamo delle azioni di erosioni meccaniche o del tempo, automaticamente viene via anche il prodotto. Però su superfici dure, sostanzialmente, esempio su nei vetri, come abbiamo fatto a Bagno Giulia, che abbiamo fatto il trattamento anche sui pannelli fotovoltaici che ci sono sui tetti, lì la cosa interessante di questo prodotto biossido di titanio è che fa sì che il vetro diventa autopulente. Il biossido quindi titanio, se da una parte abbiamo ottenuto l'igiene, di qua invece otteniamo la pulizia. Certo, sì, perché con lo stesso concetto di disgregare quelle che sono le sostanze organiche che poi di solito si aggregano al vetro e diventano quello che lo ossidano, perciò che lo sporcano, automaticamente rimane pulito, ma soprattutto ogni volta che piove, non essendosi attaccato allo sporco, porta via tutto quello che c'è di sopra. Questo è un argomento molto interessante, perché questo biossido di titanio applicato sui vetri li fa diventare autopulenti. Questo vuol dire non che non puliremo più il vetro, ma che la pulizia del vetro sarà fatta, diciamo, in tempi più lunghi, nel senso che passerà più tempo fra un lavaggio e l'altro, ma soprattutto sarà più facile pulire. Questo ovviamente utilizzo minore utilizzo di detergenti, perciò meno inquinanti, e soprattutto nel bagno Giulio è stata una cosa importante, perché siamo in un ambiente ecosostenibile dove è stato cercato ovviamente di migliorare tutto quello che era i processi. Quindi abbiamo detto dei camminamenti, dei pannelli solari, altre applicazioni fatte a Bagno Giulia? Ecco, in tutte le cabine del Bagno Giulia abbiamo utilizzato un impregnante per il legno. Questo prodotto, applicato semplicemente con un pennello, viene assorbito dal legno e gli crea delle nuove proprietà, lo fa diventare idrorepellente, ma soprattutto lo mantiene stabile per quanto riguarda l'umidità. Questo è un concetto fondamentale in un prodotto come il legno, che è un materiale vivo e che deve respirare. Creandogli questa diciamo omogeneità nell'umidità interna, il legno riesce a rimanere stabile, perciò per dirla in parole povere non fa crepe, rimane fermo, e però gli permette di avere una lunga durata, e questo soprattutto su un materiale così ecologico diventa uno dei processi più importanti che ci possono essere. Senta, ovviamente il risparmio diciamo ambientale di tutti i prodotti chimici che sarebbero stati necessari per pulire tutte queste superfici di cui diceva, ma anche per la manutenzione del legno, è evidente. Quello che utilizzate voi, ad esempio quando mi parlava del biossido di titanio, però è altrettanto ecologico? Cos'è il biossido di titanio? Allora, il biossido di titanio è un prodotto che, per chi ci ascolta, che lavora nel mondo dei colorifici, lo conosce benissimo, perché viene utilizzato per far diventare il colore bianco. Perciò in misura micro è oggi uno dei prodotti più utilizzati per produrre pitture e vernici. Ho trasformato in misura nano il biossido di titanio, che è un minerale, acquisisce questa nuova, diciamo, funzione. La cosa interessante è che è già utilizzato in un sacco di prodotti che magari spesso non se ne è a conoscenza. Posso citarne alcuni per le sue caratteristiche. Ad esempio viene utilizzato soprattutto nelle creme solari, perché per proteggersi dal sole all'interno della normale protezione solare c'è il biossido di titanio, che è un riflettente in quel caso per il sole. Viene poi utilizzato, esempio, per rivestire le cioccolate fondenti, quelle nere, che così rimangono nello stesso colore. Viene utilizzato all'interno di rossetti, viene utilizzato, perciò anche se tanti non lo sanno, è già molto utilizzato nel mondo che normalmente noi compreso utilizziamo. Compreso quella alimentare, la cioccolata mi ha lasciato folgorata. Assolutamente sì, questo anche per far capire che effettivamente è un prodotto che non ha problemi di tossicità con le persone. Con tutti gli studi fatti, anzi vorrei anche citare la collaborazione che abbiamo in essere con l'Università di Reggio Emilia, con il professor Manfredini. La cosa interessante, soprattutto lo vedremo nelle prossime uscite di materiali della ceramica, è che queste piastrelle trattate col biossido di titanio diventano autopulenti, ma soprattutto hanno anche una funzione per mangiare quelli che sono i fattori inquinanti, i cosiddetti NOx. Basti pensare che 1000 metri di superficie trattata con biossido di titanio equivale a 56 alberi adulti che depurano l'aria. Senta, vedo anche che nel parlare di nanotecnologie si punta molto a sottolineare anche i vantaggi che queste possono dare in termini di risparmio energetico e di maggiore sostenibilità in generale. Può farci qualche esempio in questo senso, magari applicato a Bagno Giulia? In tal senso, in Bagno Giulia abbiamo fatto proprio abbiamo messo a disposizione un additivo che va aggiunto alle normali pitture, perciò basta andare in un colorificio, prendersi una pittura, aggiungere questo prodotto all'interno, miscelare e poi dipingere il muro internamente o anche esternamente. Come funziona? Ci sono all'interno delle microsfere, quando parlo di micro in questo caso siamo tutti quanti al di sotto dei 5 micron, e poi c'è il biossido di silicio in questo caso all'interno di questo prodotto. Questa pittura applicata a una superficie riflette quelli che sono i raggi infrarossi e i raggi solari. Per quanto riguarda l'esterno, la funzione, potrei citare un particolare esempio di Bagno Giulia, che la casa è stata trattata totalmente con questa pittura, e che cosa succede? Se oggi una superficie esposta al sole si riscalda e ovviamente continua a scaldarsi, con questa pittura che riflette i raggi solari abbatte la temperatura di superficie, perciò vuol dire che all'interno di quella di quello stabile, di questa casa pitturata in questa modo, abbiamo una temperatura molto più bassa e di conseguenza un risparmio energetico qualora noi dovessimo raffreddare. Oggi, con anche i cambiamenti climatici, visto che le stagioni sono soprattutto calde più che difenderci dal freddo, diventa una cosa molto molto importante per il risparmio. Difatti Bagno Giulia non ha l'aria condizionata all'interno delle proprie case. Cioè solo con questo si riesce ad avere dei risultati tali da non avere l'aria condizionata? Sì, allora diciamo che miracoli non esistono. Si possono fare, no, però... però la condizione, le porto un altro esempio che forse magari può dare l'idea del come questo prodotto possa essere efficace. Abbiamo fatto un intervento con un grosso centro di smistamento merci, cioè un capannone di dimensioni veramente importanti, dove all'interno, sia per le dimensioni che per la grandezza, era molto difficile ovviamente raffreddarlo. All'interno di questo capannone c'erano dei prodotti che non potevano andare al di sopra di determinate temperature, e perciò era un grosso problema. A quel punto siamo intervenuti mettendo la nostra pittura al di sopra del tetto, che aveva una guaina bituminosa, abbiamo messo sopra il tetto e su tutte le pareti esterne di questo capannone questa pittura additivata, e all'interno di quel capannone siamo riusciti ad avere 10 gradi in meno. Questo ovviamente ha risolto il problema per quanto riguarda questa impresa, e ovviamente con un risparmio energetico importantissimo che non abbiamo ancora quantificato, ma che però appena avremo i dati andremo a pubblicarlo. Un'ultima curiosità riguarda i costi di questi prodotti di cui abbiamo parlato. Si tratta di costi proibitivi, di costi che anche un privato a casa sua può sostenere? No, si tratta di costi assolutamente in linea con quelli che sono i prodotti oggi esistenti. Difatti noi siamo la nuova generazione di prodotti sostanzialmente che esistevano anche prima per certi versi per quanto riguarda l'idrorepellenza. Alcuni prodotti proprio non esistono, però se io vado a fare un calcolo di quelli che sono i benefici di queste applicazioni, assolutamente sono super super convenienti, anzi nell'esempio del termodry possiamo dire che il costo, quel costo in più che si può mettere per l'additivo all'interno della pittura viene recuperato lo stesso anno per il risparmio certo. energetico che io posso avere, perciò assolutamente normali, abbordabili, ecco. No, proprio vorrei dire normali, normali. Ancora un buon pomeriggio da Laura Bettini. Nella seconda parte di questa puntata, come promesso, continueremo a parlare di spiagge. Poco fa abbiamo detto di Bagno Giulia 85 a Rimini, dove sono state utilizzate le applicazioni di NanoSilv, che è un'azienda veneta di nanotecnologie, per risolvere piccoli e grandi problemi di pulizia, igiene, efficienza, durata delle apparecchiature e delle strutture dello stabilimento. Ora invece andremo a Bellaria Igea Marina, comune in provincia di Rimini, dove è partito quest'estate il progetto Tecnospiaggia di UMPI e Telecom Italia, che consente di dotare gli stabilimenti balneari di servizi tecnologici innovativi, come la gestione di ombrelloni fotovoltaici o la ricarica dei veicoli elettrici. Ci dirà di più Raffaele Villa, direttore marketing di UMPI. Buon pomeriggio, Villa. Grazie, buongiorno a tutti. Allora, Tecnospiaggia, che cosa intendete con Tecnospiaggia? Ma Tecnospiaggia è una soluzione tecnologica, appunto, che contempla tutta una serie di servizi e servizi che sono pensati per avere un maggior livello di comfort per quanto riguarda i turisti, i bagnanti, in ogni caso i cittadini che comunque no, si prestano ad andare all'interno dello stabilimento balneare. Quindi lo stabilimento balneare, attraverso la tecnologia ad onde convogliate che proponiamo, trasforma quella che è la rete elettrica della spiaggia, quindi classici proiettori, fari, ma in generale tutta la rete elettrica, come se fosse e come se diventasse una struttura LAN, quindi una rete dati ad alta velocità che funziona con i classici meccanismi del mondo internet. A questo punto la luce si trasforma in un vettore, in un nodo internet, dove riusciamo attraverso la piattaforma a creare risparmio energetico, quindi ottimizzare i consumi energetici, modulando la luce come e quando serve, e nello stesso tempo abilitando l'infrastruttura elettrica a dei servizi a valore aggiunto. Quali servizi? Servizi come per esempio il wifi, quindi diciamo il lampione, chiamiamolo, il proiettore, diventa un nodo internet che dà la possibilità di alimentare degli hotspot wifi e dare quindi navigabilità ai bagnanti che stanno sotto l'ombrellone. Poi la spiaggia tecnologica ha anche all'interno una componente di fotovoltaico, quindi gli ombrelloni fotovoltaici, quindi dotati di appunto dei micropannelli, danno la possibilità di essere gestiti dalla stessa piattaforma che gestisce appunto il wifi, le luci e tutti gli altri servizi, aprendo e chiudendo gli ombrelloni in maniera anche personalizzata, come se avessimo un tablo elettronico remotizzato. Altre soluzioni che abbiamo implementato sono per esempio il totem interattivo, quindi da un totem multimediale connesso in rete, sulla rete elettrica, riusciamo a creare interattività dando informazioni per esempio su tutta quella che è la programmazione turistica, quindi eventi, concerti o altre informazioni di pubblica utilità, incluso anche qualcosa di più simpatico come per esempio l'invio della cartolina elettronica, quindi è possibile dal totem scattare una cartolina elettronica e inviarla via mail ai propri cari, ai propri parenti, ai propri amici, insomma. Questo totem quindi è una sorta un palo della luce, no? Cos'è? No, diciamo, il totem è un, appunto, chiamiamolo touchscreen gigante collegato alla rete elettrica, però diciamo la rete elettrica in questo caso funge all'effetto di creare due servizi, quello di dare energia elettrica per alimentare il totem, ma allo stesso tempo avere la connettività, quindi sullo stesso cavo elettrico esistente, senza dover infilare nuovi cavi, stendere nuove fibre ottiche, usiamo la rete che esiste già e interconnettiamo appunto degli oggetti intelligenti creando questa piattaforma tecnologica, quindi la Tecnospiaggia. Ok, quindi questa è la vostra specialità, nel senso che è sempre stata la rete elettrica diventa una rete dati, insomma qui tutto il vostro filone di lavoro poi è arrivato sulla spiaggia, però era quello il filone originario. Ma guardi, noi siamo partiti appunto azienda elettronica a circa 30 anni e compie 30 anni all'insegna delle onde convogliate, quindi il trasferimento dati sulla rete elettrica come lei dice, quindi quelli i concetti della Smart City che diciamo sono tanto proclamati proprio in questi periodi, noi li abbiamo integrati appunto sfruttando quelle che sono le reti esistenti attraverso in questo caso la trasmissione dati su rete elettrica, ed è questo il vero valore aggiunto, poter sfruttare una rete che esiste al meglio, quindi prendendo le risorse migliori, perché creare nuove reti, quindi le smart city non ne possiamo rifare tutte, quindi non è possibile pensare di ricostruire tante smart city e quindi facendo tante infrastrutture nuove. Si utilizzano le dorsali principali di telecomunicazioni che ci sono, ma la rete elettrica, che è la rete più capillare nel territorio come all'interno dell'edificio, diventa una grande risorsa da sfruttare e in questo modo la possiamo rivalorizzare, è come dire l'ultimo miglio, ma in questo caso l'ultimo pezzo che serve per portare servizi in maniera capillare, in questo caso per esempio il totem interattivo piuttosto che magari una centralina per il controllo della qualità dell'aria. Noi abbiamo appunto integrato nella stessa piattaforma della Tecnospiaggia una centralina che controlla temperatura, umidità, raggi solari, quindi raggi ultravioletti, anche il contenuto stesso dell'inquinamento, quindi la CO2, le polveri sottili. Tutta una serie di informazioni che possono essere consultate anche via tablet come per esempio anche la videocamera panoramica, quindi è possibile collegarsi alla propria spiaggia e vedere diciamo in diretta sul proprio tablet lo stato della propria spiaggia. È un modo quindi magari io ancora prima di uscire mi collego e vedo com'è. Esattamente. tanta gente, poca poi, gente, che so, guardi, io, troppo vento. Certo, c'è un servizio simpatico, per esempio, che è la bandiera virtuale, nel senso, dal mio tablet io posso vedere, collegandomi alla Tecnospiaggia, alla spiaggia, vedere qual è la bandiera, se la bandiera è rossa, la bandiera è gialla, quindi se il mare è mosso, e poi avere anche una serie di servizi di soccorso, quindi quello che è la chiamata di soccorso in tempo reale, no? Attraverso un telecomandino, può essere allertato il pronto intervento, il salvataggio, che magari si trova in una posizione differente rispetto a quella che si ha all'interno della spiaggia. Insomma, una piattaforma che funziona anche in modalità cloud computing, quindi da remoto, attraverso i classici terminali, è possibile appunto gestire, consultare e avere una serie di comfort, non solo quando si è nella spiaggia, ma anche, come diceva lei, quando si è fuori. Cioè, un modo per portare la spiaggia nella città e la città nella spiaggia, quindi viceversa, e avvicinare due mondi che magari sembrano d'estate vicini, ma in altri periodi dell'anno magari anche molto lontani. Senta, quindi se io adesso volessi sapere com'è la situazione sulla spiaggia di Bellaria Egea Marina, potrei farlo? Esattamente, io mi collego attraverso appunto una modalità browser classica, e quindi ho come riferimento, diciamo, il classico indirizzo IP o il punto di riferimento del sito della spiaggia in questione, e da lì posso andare a vedere quelli che sono lo stato delle telecamere, lo stato appunto delle condizioni dell'aria, ma anche dell'acqua, quindi se c'è il mare mosso, se l'acqua attraverso dei sensori intelligenti è più o meno inquinata. Insomma, posso anche decidere quale sarà la tecnospiaggia che io vorrò andare a visitare durante il periodo estivo. Ma è un servizio che, diciamo, si ha negli stabilimenti balneari, o riguarda il comune e quindi funziona diversamente, ecco? No, guardi, questo servizio è partito ed è diciamo collegato allo stabilimento balneare, però sono tutti servizi che poi sono anche che coinvolgono comunque anche il comune e l'amministrazione, tant'è vero che l'inaugurazione è stata tenuta appunto dal sindaco di Bellaria Egea Marina proprio in occasione della presentazione del progetto Tecnospiaggia il 31 di maggio. E quindi sono soluzioni che si traslano e possono calzare bene anche in altre situazioni, nel contesto della città, piuttosto che della stazione ferroviaria, piuttosto che di un tunnel, quindi soluzioni che permettono di sfruttare la rete elettrica, le cosiddette power line ad alta velocità, e di fare risparmio perché poi mi serve per diciamo appunto autofinanziare questi servizi a valore aggiunto. Quindi ci sono tante componenti che vanno dal risparmio energetico all'ecosostenibilità, ma anche all'aumento dei servizi all'interno del contesto. Bellaria Egea Marina era già un comune attento a questo aspetto, oppure inizia il suo percorso con la Tecnospiaggia? Ma guardi, ha iniziato il suo percorso con la Tecnospiaggia, ma era già attento dal punto di vista dell'informazione e dei contenuti interattivi e multimediali verso la cittadinanza. Ecco, però la differenza sostanziale è che mentre si possono realizzare dei servizi magari in maniera quasi analoga, quindi il totem può essere installato all'interno della città, però bisogna spaccare la città, creare una fibra ottica dedicata, ecco, in questo caso sfrutteremo la rete della pubblica illuminazione, e quindi se lei tiene conto che c'è un palo della luce ogni 15 metri, ci rendiamo veramente, appunto, prendiamo coscienza di quello che può essere la capillarità di servizio calata nel territorio, sfruttando quello che c'è già, una risorsa che c'è già, senza dover andare a spaccare e sventrare tutte le nostre strade, creando nuove infrastrutture. Senta, io di questo aspetto ho già sentito parlare molte volte. In Italia chi è che ha deciso di utilizzare effettivamente questa rete di illuminazione stradale? Le dico, Unpi Elettronica ha installato 500.000 di pali nel mondo, quindi sono circa 300.000 dispositivi, 300.000 pali della luce che sono diventati, tra virgolette, intelligenti e che sono abilitati a questi servizi di risparmio e di innovazione, e sono tanti comuni, e diciamo che è una tecnologia che si adatta a tutto il mercato dell'esistente, quindi in Italia abbiamo centinaia di comuni che vanno, insomma, dalla Val d'Aosta fino alla Sicilia e in tanti contesti, quindi sia la città piccola, il comune piccolo, ma anche la città medio-grande, quindi diciamo dai 15.000 abitanti in su, hanno le stesse esigenze. L'unica cosa è che forse i comuni più piccoli sono più flessibili e riescono a recepire meglio magari l'innovazione mettendola in pratica già da subito. Purtroppo sì, perché poi quando si parla di Roma o Milano, dove ce ne sarebbe un gran bisogno, invece si stenta, no? Magari. Ma diciamo che lì è chiaro, più il fattore di scala diventa grande è più difficile magari anche cercare di mettere insieme tanti pareri. È più facile che un piccolo comune diventi intelligente, diventi una smart city. Ho sentito che voi avete lavorato anche alla Mecca, a Medina, sì. A Jeddah, cioè non... Ma ecco. Guardi, sì, abbiamo lavorato. Forse lì il parere è unico. Sì. Lì l'interesse chiaramente sull'estero c'è sempre un'apertura mentale diversa e forse è più facile attecchire con delle tecnologie innovative piuttosto che magari in Italia, che l'abitudine delle volte è un freno. Sì, alla Mecca abbiamo installato parecchie centinaia di migliaia di dispositivi e anche dal punto di vista del risparmio energetico, nonostante l'energia costi molto meno, l'attenzione, soprattutto la gestione, avere le informazioni in tempo reale di cosa succede, dove devo andare, cosa devo portarmi per riparare un determinato guasto, anche il risparmio energetico comunque è una componente importante, perché sono sempre risorse che vengono, insomma, buttare via l'energia è un peccato. Certo. E quindi ottimizzare i cicli di funzionamento e quindi abbattere i consumi e quindi ricavare delle importanti risorse che poi posso spendere in nuovi servizi, sì, diventa veramente un valore aggiunto. Poi se vogliamo, insomma, un'azienda di cattolica che sta controllando la Mecca è singolare anche come binomio. E l'ultima cosa, vogliamo dire il nome di uno stabilimento in cui uno può andare a testare? Magari abbiamo fatto venire la curiosità a qualcuno, insomma. Sì, guardi, lo stabilimento è lo stabilimento Bagni Andrea della Regia Marina, è il bagno 95, ecco lì può avere tutta una vetrina di servizi che, come dicevo, va dal telesoccorso all'informazione, al wifi, appunto interattività attraverso un totem interattivo multimediale che è possibile gestire da remoto e i cui palinsesti sono modificabili in tempo reale anche attraverso la piattaforma di gestione. Bagno Andrea 95 a Bellaria Regia Marina. Andiamo tutti sui siti a controllare. Andiamo sui siti. Grazie davvero e buon pomeriggio, buon lavoro, buon tutto. Grazie, un saluto a tutti, grazie. Ed è tutto per questa puntata dell'Altro Pianeta. Vi ricordo, per scriverci, l'altropianeta@radio24.it. Da Laura Bettini, appuntamento alla prossima settimana, alla stessa ora.